È un piacere tornare in presenza, rivedere Andrea Paolucci, TC Teatro, per una realtà, il labirinto. A me viene in mente Teseo, Arianna e il Minotauro. È dal 18 al 27 giugno, ma non credo che sia una realtà mitologica. Ciao Andrea. Buongiorno, ciao William. Beh, non è mitologica, ma da lì siamo partiti. Non è un caso che appunto tutti i riferimenti poi dentro lo spettacolo richiamino un po' il mito classico. In particolare un aspetto di quel mito, meno conosciuto forse, e cioè che a un certo punto Atene si trova soggetta a Creta e Creta decide di farsi mandare ogni anno 14 virgulti, anzi 7 virgulti e 7 fanciulle, da dare in pasto al Minotauro. Quindi chiede un sacrificio ai giovani di Atene per continuare a tenere il cattivo dentro le sue mura. Ecco, questa immagine di una città importante come Atene, no? La democrazia per eccellenza, che in qualche modo deve sacrificare una parte, la parte più pregiata, la parte della gioventù, per mantenere un po' lo status quo, ci interessava molto. Bologna non è Atene, né nel bene né nel male, non, per fortuna è una città dove tutto sommato si vive bene, ma quei fanciulli che in qualche modo ci dimentichiamo, buttiamo dentro i labirinti, ci sono anche qui. E da lì siamo partiti, quindi siamo andati a intervistare chi questi fanciulli e queste fanciulle li conosce bene, quindi i servizi sociali, tutto il sistema della giustizia minorile, chi si occupa, le associazioni tantissime che si occupano di dipendenze, già a 11-12 anni i nostri pronti soccorsi vedono ragazzini sabato sera incomitili. Allora diciamo che per una compagnia come la nostra, che da sempre ha lavorato con la gioventù, con i ragazzi, facendoli fare teatro, portandoli a vedere spettacoli, avere il coraggio, posso dire così, di andare a cercare sotto il tappeto, no? Nei meandri di questa nostra bella città, quelle situazioni in cui l'adolescenza invece fa fatica ad avere una voce, ad avere una normalità, ci sembrava un atto doveroso, dopo tanti anni dove siamo stati fortunati a lavorare invece con la parte bella della gioventù. E quindi così inizia lo spettacolo, o meglio, così inizia l'idea di fare uno spettacolo che parla di quella adolescenza perduta. Com'è strutturata questa realtà? Allora, anche qui, come vedi, non è un caso che partiamo parlando dei ragazzi, parlando delle storie, parlando dei temi. Però, per parlare di questi temi, ci siamo interrogati come sempre su quale poteva essere il linguaggio giusto. Noi siamo una compagnia che è abituata a fare spettacoli con una sedia e un attore, una bella narrazione, oppure portare 1000 ragazzi sul palco, come nel caso di Futuri Maestri. Quindi non abbiamo un'estetica preordinata, no? Andiamo a cercare la cosa giusta, il linguaggio giusto, a seconda del progetto. In questo caso, la realtà virtuale, che non è solo un gioco, non è solo un elemento così curioso da vendere agli spettatori come novità dell'anno, ma è un meccanismo che ci consente di mettere lo spettatore letteralmente nei panni di questi ragazzi. Ti faccio un esempio. La prima storia che gli spettatori incontreranno è una storia dove, grazie proprio alla realtà virtuale, noi diventeremo una bambina di 11-12 anni. Ci guarderemo le mani grazie a questa realtà virtuale e vedremo le mani di una bambina. Ci guarderemo in tondo e vedremo il mondo un pochino più grande di com'è in realtà, perché noi siamo un po' più piccoli, essendo una bambina di 11-12 anni. E ci troveremo in un ascensore. In questo ascensore entrerà un uomo, un signore un po' anziano, non farà nulla, ci guarderà solo in maniera con quegli sguardi che purtroppo vedono noi maschietti spesso dalla parte sbagliata. E ecco, quell'esperienza che lo spettatore potrà fare, maschio, femmina, adulto, adolescente, di trovarsi nel corpo di quella bambina che viene in qualche modo violata da quello sguardo, è un'esperienza molto forte che si può fare grazie alla realtà virtuale. Poi tecnicamente è un visore, una specie di maschera da sub che viene messo in testa agli spettatori. Gli spettatori hanno uno spazio abbastanza grande, un'aula scolastica, non a caso siamo alla Dini Valeriani, tutta vuota, quindi lo spettatore grazie a questo visore potrà camminare lungo e largo nell'aria e vedere cose che voi umani neanche siete in grado di immaginare fino a quando non verrete a vedere lo spettacolo.